sociale più che altro, ma quello è tutto un sistema che dopo hanno incominciato a cambiare idea, perché anche loro si sono resi conto che dovevano produrre di più, dovevano produrre eccetera eccetera. Però ti posso garantire che il lavoro che inizialmente quando lo facevo a caso era un lavoro fatto come si deve veramente, duraturo per anni e anni e anni. Ad esempio prendiamo noi il negozio di Mosa, ad esempio, ecco, il negozio di Mosa, Sassa, di quando l'ho fatto io, l'ho fatto sia sopra che sotto, tutto l'arredamento, invece scaffalature, banchi, tutte quelle cose lì, quelle le ho fatto io, le messaggerie sarde sotto il grattacielo lì di via Brigata Sassa, là di Piazza Castello, cosa lo vuoi chiamare, dove vendono i giornali eccetera, quelle dico, quella l'ho fatta tutta io, sotto e sopra, il coso, il negozio del Gobbetto, dove l'ex amante di coso, di Don Diego o Gianni, quello l'ho fatto io, l'arredamento per il negozio, le cose, l'edicola di via di sotto il Portici, quelle le ho fatte io, per dire, no, ci sono tanti negozi a Sassari fatti da me, Rocca Rui ad esempio, a Sentino, Capo Falcone, tutti io li ho fatti i lavori lì, ugualmente, per dirti. E sono lavori fatti 50 anni, quasi, non dico 50 anni, ma quasi, capito? Bene. Sono lavori duraturi, lavori che sono fatti con criterio e ti durano sempre, non si distruggono mai, tutto lì. Vabbè, dai, riprendi già, ancora un passaggio, poi chiudo per la cena, avanti già. Sappiamo, io chiudo Giulio, salutone circolare a tutti, va, che venuta gente. Ciao, a domani, riprendi già. Ciao, grazie, ci sentiamo, riprendi Giulio, dei saluti e poi rilascia a K2. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime, avanti K2. Ciao Graziano, le prossime anche a parte mia, ok, anch'io chiudo là, oggi proprio tutto il giorno, anch'io chiudo adesso, e mi attrinto per la cena, anch'io mi devo preparare tutto, adesso mi organizzo. Ciao Giulio, buona serata anche a te, buonasera a Gianni, stretta di mano a tutti e a risentirvi in ottime condizioni. Riprendi Giulio, dai, ascolto il finale e poi spengo. Vai Giulio. Ok, ciao K2, salutoni, dai, una stretta di mano, grazie per il questo. Stasera ci siamo proprio divertiti e in un certo senso anche sfogati, dai, mettiamola su quel piano. Ci sentiamo alle prossime, magari a domani o K2, se ti fai sentire, io suppongo di sì. Avanti Gianni. Ciao K2, grazie per il questo, ci sentiamo, stiamo in bella. Comunque Giulio, ripeto, volevo dirti, se tutti fanno come ha fatto K2, che se ne è andato a quel lavoro, quelli lì fanno così, non pagano ogni settimana uno e c'è il lavoro gratis sempre. Purtroppo ci sono queste aziende così che truffano gli operai, ma cosa ci vuoi fare? Come minimo meritano una bastonata in testa questa gente qua, però cosa fai? Oltre al fatto che non ti pagano ti rovini anche, ma per carità, una preferenza ci rinuncia e ciccia, anche se non è giusto che sia così, e d'altronde cosa ci vuoi fare già? Succede e continuerà ancora a succedere tantissime altre volte. Vabbè, dai già, sono le 8 meno 10 minuti e dunque diciamo che è arrivato il momento della cena, adesso vado e mi faccio vedere giù così almeno si rendono conto che sono ancora vivo, perché sono tutta la sera qua attaccato al baracchino. Ci sentiamo già, ciao, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani sera, tanto tu domani sera non lavori, vero? No giù, non lavoro no. Buona serata, ma buona cena giù, quando la fai. E domani devo andare a farmi la revisione della macchina. E mi sono accorto all'ultimo momento che c'era una pagina rossa perché non funziona, spero che me la passino lo stesso, se non ce la faccio andare dall'elettrauto. Ok, giochi. Dove la fai già? L'hai già prenotata? Vado lì all'Open ogni due anni che mi avvisano loro con la lettera ogni volta. Mi scrivo, spero di fare una cosa gradita per avvisarla che deve fare la revisione, eccetera, eccetera. Io ho preso subito la puntata, come arriva la lettera la freccia. Avevo capito, e allora vediamo bene, dai, cioè hai praticamente già prenotato. La Bugia, ci sentiamo, dai, alle Prussie, no, solo ti davo l'indirizzo io, dove fanno una bella revisione. A Pedaniete fra la 24. Vabbè, ci sentiamo, ciao già, alle Prussie, ciao. Ciao, no, ho già prenotato per domani. Ci sentiamo. Ok, ciao già, ciao. Ciao a tutti e due, alle Prussie, vi sto ascoltando. Oh ciao qua, ciao, ancora l'ascolto io, va bene, ok, ci sentiamo, ciao qua, alle prossime. Sono rientrato, sono, mi sento meglio. Ok, ciao Gianni, buonasera, come va? Ciao Claudio, anche a te. Bene, KP2, avanti. Ero giù, mi ho messo la borsa a carta, quindi mi è passato, e avevo quel dolore, ero, è proprio colpo d'aria che ho preso, ecco, con la borsa a carta mi è passato, te immagini. Ok, oggi a faccia sua, c'è Marco degli Emirati Arabi, lo sai che mi ha fatto i saluti, non solo lui, anche il sultano, adesso salutami già di KP2. Kappa. Lo so, me l'hanno detto che c'è stato questo evento stasera, ma purtroppo io avevo mia moglie che doveva andare a riposare, ho dovuto spegnere per quello, se no mi sarei stato tutto con Claudio, non c'erano problemi. Comunque saluti li avevo mandati da prima tutti quanti, quindi anche io mi ritengo salutato. Però Marco, il sultano non te li ha mandato a te. Sì, vabbè, forse è stata una bella donna. Allora, noi ci ha mandato le fotografie su WhatsApp. Già, certo po' che freddo. Sultano, e com'è la stazione, Clark? La stazione, non tanto le radio, perché le radio oramai sono uguali a tutti, capito? Non è che si può giocare. Le radio, il problema sono le antenne, una monobanda per i 40 metri, allucinante, costa 6-7 mila euro. Vabbè, non gli mancheranno i soldi sicuramente. Non credo proprio, vabbè, tu. No, ho visto, ho chiesto prima l'ordine a Marco, ma ho detto no, ci mancherebbe, dove sono? Ma qua sono sul canale 4, fa piacere se li saluti in diretta. Ma detto sì, dai, piace al TTT che io parlo, dimmi quando sei pronto. Ho piacere al TTT, sono invece le antenne separate, quindi non faccio nessun rientro e ho fatto chiacchierare a tutti e insomma. Mandare i saluti a tutti, tutto qua. Ma parlava italiano? Sì, parla italiano, inglese. Ha salutato in italiano. Cava, anda bene. È una bella soddisfazione anche quella. Marco ci ha portato nei paesi lontani. Io ho portato io nei paesi lontani, non Marco. Marco stava trasmettendo, eravamo in collegamento e quindi ho sentito lui e mi sono permesso di fare questa cosa sempre con l'ordine del sultano e di tutto il gruppo. Cava. Qualche giorno mi ha detto che si è passata una cosa, siamo arrivati non so dove, c'era Marco, io pensavo il 27, toccato, questa me la sono persa, questa è grave, invece era sul telefono che vi siete sentiti. Sì, vabbè, ferma per telefono, per diciamo, traslazione. Sì, arrivo benissimo, dice anche le Beato. Vorrebbe che ci sono sul tetto, non arrivo le Emirati Arabi, tira un po' tutto. E quindi stavo parlando e mi sono permesso di fare questa cosa, ho pigiato qua al 4.30 e ho fatto ascoltare, poi al contrario ho pigiato l'SM20 e ho fatto ascoltare i saluti di tutti, capito? Speriamo sia stata una cosa gradita. Sì, scusa, io sto sbagliando, che sono in piedi, sto facendo cose, mettendo a posto, mamma mia. Radio Vita ci mandato dalla cosa, accendono tutte, però qualcuno non Sì, sì, sì, ha detto che vi manda un ricordino, una bustina di tè a tutti. Cappa gatta. È buono, va. Anda bene. Quindi è ospite da Sultano, Marco. Ah, sto sempre sbagliando microfono, porca miseria ladra. Oh, scusa Gianfra che sto sempre sbagliando microfono, porca miseria, aspetta un attimo. La vecchiaia è carona. Sì, succede a tutti, succede anche a me quando cambio apparato. Va a schiacciare il microfono e poi me ne accorgo. Quello succede quando è troppo radio, se ne avessi una sola succederebbe. No, ma perché poi c'ho l'SR20, 2MC60, già sto parlando qua, sì, sì, sì. Sto parlando qua. C'ho i 2SR20 e i 2MC60, sono tutti in fila e quando sono in piedi ho pigiato, ma non ha male, vabbè, non succede niente. Cioè mi conoscono che sono mezzo rincoglionito. Me ne affitta assai, vero capri due, tu rincoglionito sì.110, la linea Lecraft che è a 110, il picchi a 110, il stomaco a 101 che è a 110, è un tonnaggio da vedere, non so quanto costano questa strumentazione a 110 già. Ma li vendono qua, sai? Li vendono, già li procurano, io l'avevo fatto procurare da Walter, un po' su internet, qui e là, però sono costosi, non è che te li regalano, ho capito. E l'ingresso purtroppo è singolo, perché deve essere 110 per radio, tu non puoi alimentare due radio con quello lì, perché altrimenti le smetti l'alimentazione, capito? E quindi devi avere uno per ogni radio, io ne ho già quattro, la linea, il DAC che mi interessa, che lo uso, eccetera, la linea di Kraft, il Sombrenkamp e l'FR50B, quelli li accendo spesso, ma Ghiti cosa me ne ha tutti, tanto mi poco fa li ho accesi, ho visto che accendo e li ho messi da parte, no, non mi interessa già, e se no me ne chiede cosa, Gai e Gianni. E ok, così è qua, così è, si vuole un, come si chiama, bastardo. Anche se c'è una camera ci vuole cura, capito? No, io ho due di cose, di cioè, quello originale del contatto, poi c'è proprio il trasformatore che me l'ho costruito, c'è anche uno strumento enorme che segna, come sta quello strumento, quello mi segna anche il voltaggio, e io ho lavorato a te di quei trasformatori. E capito, faccia a faccia, tanto qua io riaccendo uno a vapore, ti accendo, tanti cosa perché ho portato anche in garage, e sono qui di questa, un coso di questo, ma è bello, è capito qua che mi chiedi qualche uno anche di questi baracchini. Poi io basta, mi compro una vetrina questa basta, e non la vedo più, non mi ripresi già. E cosa fare al vetraio? Devo fare una, assumere una come la vettura e con gli sportelli in vetro, tutta quanta bella. Dal vetraio te la fai fare. Non c'è il vetraio di Amuro. Ho cannuta in nome già, non c'è nulla, non c'è più nulla, siamo penalizzati. No, ma anche da qualche negozio che si è dismesso, da qualche sempre cercato se la trovo. Hai capito? Di quelli anche che si possono già offendere, hai capito? No, che tocchi il pavimento, ne ho visto la pittura a scatta all'epoca, che è quello che ho fabbricato due, che erano sospese e tipo i pensili, vengono tutta a vetri già. E poi qualche con qualche po' di illuminazione dentro, la fine del mondo, già qualche richiesta dentro, qualche microfono, così, e poi quando muoio ve le prende. Ma pesce a vivere. Sì, no, davvero, però sta pensando ieri a vedere il coso, l'altro capi che ho comprato. Era così, ho promesso, si è venuti di regalo tutti, no, lo fa. Però è una cosa per passare ora qui. No, non c'è nulla, già, per traio non c'è nemmeno che fare gli ami, qui non c'è nulla, capito. Ma per quello non è un problema, se per traio ce ne sono a Sassari, a Puglia, ma dei binari, li prendi qua. E solo ci voglio, io ancora non ho finito qua perché Giulio mi deve fare l'altro pezzo, però credetevi, mamma mia, spese su spese con queste radio, una rottura di scatole, posto, controposto, cavi, ogni cavo sta iniziando a pesare perché costa una barca di soldi, un casino. Io non so chi sa, devo salirci, c'è un coso da 22 metri, già tagliato, avevo portato da casa di mamma all'epoca, che l'ho messo in soffitta, un BRG8, e lo devo scendere, ma oggi non ci sono salito perché non fa proprio a portarmi, c'è freddo e niente, mi hai capito, e ne ho roba così. Però ci vuole il posto giusto, ci vuole anche il posto qui, qui è il coso, diciamo, il banco di prova, non duro con voi, però dei garaggi, c'ho anche una gran presa, però se metto una gran presa i garaggi non mi sentono, cioè ho attaccato anche la luce e poi non mi voglio grazie, visto da nessuno, riprendi già. E purtroppo quella è una passione che non tutti condividono, specialmente nelle famiglie, le mogli, figli, eccetera. E purtroppo tante volte ti porta a staccarti un po' perché non la condividi. ringraziato. Niente, mi dice, no, senti, perché sono matti i tenera del computer e capito queste cose, no, altrimenti si erano appassionati anche loro, no? Quella cosa così, che mi piacevano anche le moto, oh. E mi sono, diciamo, meglio vendute quelle, no, c'è solo una, in un caso d'epoca, una Vespa, perché non ci vado più, va fritto, no, mamma tu l'estate, che c'era due così, mi ha avuto un sacco di moto, quella era la mia passione. Hai capito? Poi quelle dell'aglio, niente. Sono contento io quando anche quando metto questi cuore elettronica, me ne ho portato 4 o 5 di quelli della 70, quando me li guardo, sono soddisfatto, riprendi classe. Aspetta che sto mettendo la vetrina a posto. Lavorando sta più di già. No, ragazzi. Perché sono aperti le busti, ma che sta ricordando oggi ci sono quelle busti che sono aperti della domenica, ma mai ci fosse andato già. E già ero con questo dolore, ma lo stesso che ho preso poco l'aria, hai capito? Perché ciò vicino alla stufa, poi ne scocche, capito, caso, non fate che l'ho coperto con la scarpa mia. Mi ha beccato, è proprio non metto il fiore nel piccolo, un tarrato e non me ne torno a mettere, è proprio un colpo d'aria che proprio perché ha toccato la borsa dell'acqua calda, capito, mi è passato, non ne ho di niente, però ci deve fare il colpo suo, è stata una settimana solo così, già. Il colpo d'aria sono un fio, invece ho preso una tosse che ti manca anche il respiro, quella tosse è secca, mi ti asciuga la gola, sono tutta la notte che tossisco. Guarda, per la cosa è così, preferisco questo dolore, anche i mal di denti. Una volta mi è venuta già, non è che la pelo di cacciato io, ma lo facevo dormire gli altri già. Per la cosa che non una volta che iniziavano, queste lampioni, tanto, poi quando è secca già, è capito anche il cantare, non puoi buttare nulla, e c'avevo poi il petto che mi faceva male per fare più giorni, ma è da molto, che cosa non me ne viene tanto. Questa roba, perché sicuramente ho preso un po' d'aria, perché io mi sto vicino alla scusa, poi vado poi a fare il viaggio, ho capito, mi anche detto la giacca, quante volte mi metto in perfetto, mi metto e hai capito, però chi crepa, capito, lo sbasso di temperatura che ho preso, sicuramente quello, perché non ne ho mai sofferto già. Vado a colpo d'aria, sarà ottizia sicuramente, se è così ottizia, fatti vedere da un ottodino vengogliato. No, viene il medico domani, amico mio, sono con lui, viene. Lui mi ha detto che la cerume già niente, infatti diciamo che prima... Cos'è già titte? L'ha presa. Oh, titte! Aspetta, io ho contratto la... Le titte c'hai? No, si vede anche voi, che intanto con questo strike, prima facevo le cose, dopo 10 minuti dopo pure lo compagno, e si vede che me ne è irritato, capite? Poi il resto è come andato al freddo, perché adesso metto la bocca a casa già, non mi fa male, capito? Non mi fa male che è calmato di questa roba. Vabbè, siamo un colpo d'aria allora, sicuramente. No, Claudio, riprendi, dai. Ma prima mi sembrava sentito anche il grod di splatter, tanto qui sì. E io sono qua. Riprendi, te la aiuto. Guarda che c'è tappe due colottite. Cosa puoi fare? Tu che hai studiato veterinaria? No, se ha le tite non lo so, ma allora il caso è grave. Chi è che ha detto otite? Non lo so, se ha l'otite o le tite. Così è Gianni. Capi due, ma sì. Guarda tu, con la porta a casa mi sta passando, e so cosa, sto dentro i treni vecchi, mi mandano, sì. Ma ora è proprio un ricordo, è da me cadere la macchina, quando sei in macchina, a quando a scaldare ti voglio soffrire, ma quando a freddo mi ha beccato sicuramente. Ok, rilasciamo il tutto a Nanni do Fiorun, dove ti trovi già? Io sono in cortile, là, in posto macchina, sotto casa, davanti al palazzo. Mi sentirei basso per quello. Ok, diciamo che mi sta chiamando Finuccio, il Moro sta chiamando, Finuccio. E ci sentivo perché c'era anche una ruota da sacca di qui, c'è. Hai capito? Però ti ho sentito. Buonasera, Finuccio. Beh, ritorno a casa, Cla. Sì, d'accordo. Con chi stai parlando, Capri? Ok, Finuccio. Pinuzzetto mi ha chiamato da Budugò, l'ho portato a Pinuzzetto. Salutamelo calorosamente, non arrivi di nuovo che è a Posantenna, non ce l'ha verticale, capito? Sì, Pinu, lo ti ascolta Claudio perché c'è l'antenna, capito, non ce l'ha più la mando qua, è tutto una direttiva cambiata quindi, e non ti ascolta perché è orientata magari da un'altra parte, ok, e quindi io mi lancio a Antonio Pirgrosse, ok, gli metto il cambio. Presidente, un saluto a Pinuccio del Moro, sento che sta modulando però non capisco cosa dice, nel senso che non è abbastanza forte, dai. Chi è rimasto in ruota? Eruditemi in merito perché so, c'è Gianni Doppio Room che è un attimino in quel Rix perché sta cambiando stazione, c'è lo Sparviero, dopodiché ci sei tu Gianni e chi altro, dimmi. Parlato io, sono andato così, ha proprio smesso poco fa, e infatti non mi dà tempo molto perché qui si è preso, non si fa me la sottostata a mio figlio, che era lui nel computer, quindi che non ci sto molto, perché non si intessera, è contro un'altra domanda. Ok, e Claudio che era io Gianni da prima, tu non lo so, Giulio aveva chiuso. Claudio. Ah, ma tu. Com'è, non si è sentito DDL, dov'è? È lavoro, c'è il turno di sera. Cappa di Ruggero. E vabbè, cosa dire? E quindi c'ha l'ottite. C'ha l'ottite. No, già se la sta curando. Così è tardi. Ok, c'era la cura grave con l'interprete di quelli che parlano con le voci e sono dovuti per farli da interprete nella radio, no, corpo d'aria è là sicuramente, già mi sta passando, perché sono andato lì e lui magari mi ha dato... Prima dice che c'aveva il tombino otturato. Non mi posso dire, hai capito? E stavo scusando questa strada e mi era irritato sicuramente anche. Ho pensato con la cosa a casa mi sento bene, però mi stato di l'altro adesso infatti devo correre giù a cambiare l'acqua. Ok, mi rimasto all'Olimpia. Ora di cena, vabbè dai, io vi capisco. Ciao Claudio, ciao Prove, ciao Gianni, ciao Pinuccetto, perché tu ti ho freddo, sto senza la stufa. Ok, ti rimetto il cambio a te, Gianni, non più mi sei attaccato. No, no, riprendi a tu. Caparugge, riprendo io, dai. Intanto sto un attimino, 10 minuti qua, dopodiché faccio questa greca in 2 metri, che sento che la frequenza è animata. Riprendi Claudio. Sì, è animata, stiamo parlando di cose tecniche qui. Io sono in ascolto, ho abbassato un po' il volume. Antonio Jax che sta chiedendo informazioni a Antonio Bo, capito? E quindi stiamo parlando di transistor, cose che non si trova più niente a Sassari, è un casino nero, Antonio, un casino nero. Ma comunque buon QRT, buona cena, buona carica batterie a Gianni Capri 2. Ci sentiamo domani se coincide, dai, fatela buona già. Cosa che ti ero dicendo? Cosa ti volevo chiedere adesso? Cazzo, sono di una stanchezza, sono crepato, guarda. Quindi è davvero una giornata di mio oggi, sarei voluto salire a mettermi quantomeno il dipolo. Ma quando è che rientra il Petrus Bonecamp? Ma chi? Fabri? No, Petros. Petros rientra l'otto, deve portare materiale anche a me. Cosa dice Antonio? Organizzati, guarda, io ci metto 5 minuti, il tempo che tu riempi un bicchiere di birra, io ho fatto, metto la scala, salgo su, ti aggancio di polo, tu mi passi il connettore del PL già pronto, preparati la caratta già pronta e tu scegli 50 mega, perché adesso inizia la propagazione e tu sei a piedi e ti dico che con quel dipolo fatto da Antonio e Boh, non si è mai capito, io ho girato tutta l'Europa, tutta l'Europa, capito? Perché quando si apre la propagazione non c'è Cristo, sono loro che si buttano sopra il tè con le direttive grosse. anche un come si chiama l'attacco Fabrizio per i 40, cioè, per i 40 di 80. In effetti mi mancano i, tu mi stai dicendo che sei, cioè quello dei 6 metri. Allora, ce ne sta arrivando quella radio 50 mega, porca paletta, ce ne sta arrivando tu. Il 712 non devi fare cambiare niente, mi calcola le spole suo, l'ingresso suo diretto per i 6 metri, punto. Tu riattacchi la sua antenna quando vuoi, commuti, cioè cambi frequenza, vai in 6 metri, quanto passa 50, 150, ci facciamo due chiacchiere, facciamo scaldare la radio. E tu non hai problema, capito? Caparo, già ho visto, sì, vabbè, è lo stesso attacco, quindi ti dovrò mettere un commutatore, è lo stesso attacco degli HF, perché ha HF 50 MHz e dopodiché è sotto a 144 e 430. Ma non hai capito, non ce n'è problema, perché il 706 come il 7004, quando tu cambi di banda l'antenna si inserisce automaticamente al commutatore interno. Che commutatore devi mettere? Ma buffone di sì. Aspetta. No, su, lo stesso organismo, allora, non so come sia fatto quello che hai tu, però il quadribanda c'ha due attacchi PL, PL femmina. Il primo, quello superiore, c'è scritto HF e 50 MHz, il secondo, quello che c'è giù, è 144-430. Quindi chiaramente se gli metti un'antenna per i 50 MHz, per forza di cose, siccome lo usi per gli HF e per i 50 MHz, devi commutare, devi cambiargli l'antenna. No, non ti serve tu, perché tu 706, se vai in retta a Claudio, come facevo io prima, ok, visto che c'hai le HF con l'850 e lo usi in HF quando ti decidi invece di usarlo in 3x9, no, cosa fai tu? All'850 noi le attacchiamo al dipolo 40-80, ok, e ce l'hai in 40-80. Quando vuoi usare quella 27 non fai altro che attaccare quelle, e gli attacchi l'antenna alla 27, e se non ti prendi un commutatore un altro, mi sa che li ordiniamo altri due, quelli che abbiamo ordinato a Stracobaratto, che sono buonissimi quelli lì, capito? Si mette ingresso antenna della come ho fatto io con 7004, l'antenna che vuoi, HF, quella che ti piace, però io ti do non usare il commutatore, lo metti diretto all'850, le metti l'antenna HF 40, 80, 10, 15, 20, 40, 80, quella che sarà, ok, mentre il 706, te lo sfrutti in VEU e in 50 mega, lo lasci fermo lì, VEU e 50 mega, punto, capito? Infatti farò così, i commutatori ne ho due che mi stanno pilotando tutte le radio, c'ho il piano superiore, tu è da molto che non vieni, c'è il piano superiore dove ci sono le V e le UHF, e c'è un commutatore d'antenna che mi pilota tre radio, e poi giù c'ho le stesse, le HF che vengono pilotate da un commutatore che ha tre ingressi, no? Esatto, però si può mettere anche al contrario quello, come ha fatto Marco a me, perché anche io avevo lo stesso problema, non riuscivo, siccome adesso a me ne manca una HF, anche l'850, quindi cosa ha fatto Marco? Con un unico commutatore mi ha messo sotto l'attacco dell'antenna collegato diretto al 7004, le uscite, le tre uscite che ci sono, cosa c'ho? La direttiva dei 10, il dipolo, l'antenna dei 15, 20 e 40 metri e l'antenna degli 80, capito? Sul commutatore, però attenzione, sul commutatore, l'ingresso di sotto dell'antenna, anziché mettere l'antenna diretta, no, lì spezzone da lì all'ingresso delle HF del 7004, come vai a fare tu che c'è un unico ingresso? Anch'io c'ho un unico ingresso e poi quello dei 6 metri, io ce l'ho separato nel 7004, HF 50 mega e 144, sono tre gli ingressi miei, non sono due, quindi l'antenna dei 6 metri l'ho messa diretta la direttiva nell'ingresso dei 6 metri, va bene? Mentre le due uscite uscite del commutatore, visto che hanno la diretta dal commutatore stesso sull'ingresso del 7400 HF, posso usare sia quella dei 10 metri che 15, 20 e 40. Capito come si può fare? Ma mi sa che faccio così lo stesso. Aspetta un attimo, sto sentendo, c'ho un orecchio dall'altra parte. Chi è che abbiamo lasciato in parcheggio? Non c'è nessuno, io non sentivo nessuno. Ho fatto salutare a Capri, a Piruccio, perché non lo sento io comunque quant'anno. Capito? Non ho provato a girarla, la verità, però non lo sento. Capito tu? Sfrutti l'ingresso dell'antenna del commutatore, lo sfrutti per dare la diretta all'ingresso dell'HF della radio, diretta, commutando però le tre antenne che vai a posizionarle, cosa fanno? I 50 mega te la metti diretta, senza farla passare sul commutatore, 50 mega diretta e gliela attacchiamo diretta. Ok, se però quella radio lì ha due ingressi, che non è diretta, allora noi facciamo come ho fatto io al 7400, si bypassa la radio col commutatore, quindi si dà la diretta dal commutatore dell'ingresso, dell'uscita delle tre antenne, e ti colleghi le tre antenne o le due antenne, quello che vuoi, le due o le tre antenne che hai sul commutatore, e puoi fare HF dal commutatore, tutta l'HF, oppure solo 50 mega. Quando tu sei 50 mega non fai altro che spostarti con la commutazione dell'antenna e le dai l'antenna diretta ai 50 mega, punto. E infatti mi sa che farò così. Aspetta un attimino, guardiamo se ho detto le due cose. Vediamo un attimino se è rientrato Gianni Double Room. Gianni, ci sei? Negativo, ascolta, tu dove hai della cartina nazionale dei prefissi, ce l'hai? Quella grande da appendere. Quella la fa la Iaregio, del radio amateuro old map, quella devi ordinare la Iaregio, come quella me l'hanno regalata quando ho comprato l'FT 950, quello che c'ha Fabrizio. Lì ci sono tutte, dico tutto il mondo, con i prefissi di nazione per nazione, e ti aiutano moltissimo, perché a volte io vado in difficoltà quando sento qualcuno che chiama, vado a vedere lì e so che per esempio sta chiamando Nord America, Sud America, il Centro America e così via, capito? PK, ma per adesso io vorrei quella già italiana, capito? Perché sto a volte sul Ponte Cesar e non riesco a capire da dove stiamo chiamando a volte. Credo che la vendano lo stesso su eBay o comunque ce l'abbia qualche ditta, però se no direttamente scarico il file e me la faccio stampare, faccio prima. 50x70 va bene. Hai già mangiato? No, ancora non tu. Sto aspettando, stavo lavando la testa e quindi stiamo aspettando che sia pronto per andare a cenare, per cui mi guardo un po' di TV e stasera c'è la Juve, fra un po' abbasso tutto. Guarda, la prima cosa che sto facendo proprio in diretta è dove il mouse, iniziare a spegnere il PC perché non ci fa più niente, acceso, allora messo al logo, finito. Ecco qua, così iniziamo a spegnere un po' di roba e poi niente, poi se c'è qualcuno magari più tardi vedo un po', se no si rabbiglia le luci. Moglie, che c'hai il genero a casa? No, non ci è venuto, se lo guarda col padre, se no guida troppo, poi l'aria non vuole. Sì, me l'hai detto, guarda dove si mette a luce. Cosa segna o spaccia tutto? Ma cos'è Juventino? Cosa c'è il Juventus, che cosa? Ci sono io contro Vittorio Giovane. Cioè Juventus contro Inter, no, non è il derby italiano, no? Sì, Juventus e Inter. Cioè l'Inter sta attraversando un momento molto particolare, visto che ha frambuscato in casa anche l'Inter, non riesce a segnare, sta pareggiando e 20 punti sotto la Juventus. sera, così il campionato è finito, non se ne parla più. Non so manco cosa ha fatto la Roma, non ha acceso manco il computer, quindi non lo so. Credo abbia vinto, almeno mi è parso di capire, con gol di tutti e qualcun altro. Non sapevo che oggi ci fosse il derby d'Italia. Sì, caro, oggi c'è il derby d'Italia e quindi ce lo guardiamo, insomma, ci ricolliamo un attimino, giusto così per fare qualcosa. Niente di particolare, è buono. Io gli ho collegato il coso al 706. Ecco come c'è bene, quando mi sposto, perché era un po' in difficoltà con questo VHF, lo uso adesso in difficoltà perché mi manca l'850, quindi sono costretto a usare il 7004 in HF e allora dovevo praticamente privarmi delle U perché devo commutare il 780, lo fai andare in V, lo fai andare in U. Allora ho acceso il 706, gli ho messo l'Adonis, quello del 271, che è la stessa connessione, che lo uso poco, quello che ha le bande laterali, e vado con quello quando mi sposto con 7004, ma non è che era una bella radio. No, assolutamente, più che bene, assolutamente. Io mi ritrovo ad avere tutti i microfoni da tavolo con l'attacco Kenwood, e vabbè, uno se uno di questi MC60, se te lo do. Però vorrei, siccome ho il Turner 751, due MC60 e un MP5, li vorrei utilizzare uno per questo 728 e dopodiché vedere se si può adattare al 706 uno di questi due microfoni, o il Turner o l'MP5, boh, cosa ne dici? Chi si può adattare? Io ho l'MP7 che ho fatto le commissioni dirette, sfruttando i colori sono andato alla prima, proprio un culo della Madonna, però funziona con la batteria e lo uso col, ho fatto la connessione ICOM e lo uso col 706, l'MP7 ed è una scoperta, funziona molto bene. Perché? Perché c'ho l'altro della ICOM che è attaccato, collegato al 271, però li posso alternare, capito? Non ci sono problemi. L'SM20 sempre della ICOM è collegato al 7004 e gli MC60 sono sul 430, sul 780 della Kenwood, VU e basta, il TMP3 sul DAC e così via. Ho anche l'MC50, ecco, l'MC50 che deve cambiare la connessione perché l'avevo cambiata. Ecco, vedi lì, se io cambio la connessione, la faccio ICOM con l'MC50, non ho bisogno dell'MB+7 che esteticamente non ci fa niente in mezzo a tutti questi microfoni professionali. Posso fare la connessione a quello e usare l'MC50 col 706, che in VHF va benissimo perché tanto una volta che inserisci il compressore, che quel microfono è normale, oppure non lo inserisci per niente, ne fermo e va bene. Sì, assolutamente. Adesso vedo, voglio un consiglio su come abbinare questo Turner, però te lo porto, lo guardi, non ti ho mai detto che l'avevi già visto, è quello che c'è la capsula esterna. Comunque sono piacevolmente compiaciuto del fatto che si sta animando la frequenza, sia in alta che in bassa frequenza. Io sto bazzicando un pochino, sento Gianni, Giulio, Capri, anche a fare due chiacchiere, eccetera, anche se l'antenna l'ho tolta per questione lì, che poi non è staccata del tutto, è all'angolo ma non è collegata, perché mi si gira il cavo, non posso spendere di nuovo altre 200 euro di cavo, non lo più assoluto, mi privo della Mantova e uso il cavo che è nuovo, c'è un H1000, l'avevo messo l'anno scorso e non lo sto usando sulla HF dei 10 metri, intanto la direttiva che ho fa anche gli 11 perché non ha bisogno neanche di accordatore e lavora in maniera buona, insomma, per Sassari provincia va bene, se poi ti allontani però devi girare, ma non ho grande difficoltà a farmi sentire, capito? E quindi ogni tanto entro, faccio due chiacchiere, anche se ci sono sempre i beneamati imbecilli che continuano a rimanere in radio, comunque quelli lasciamo perdere, non sono problemi, che poi, tanto noi possiamo andare anche sul 20, sul vintage, sul 10, cioè bisogna rimanere sempre qua, sul 4, sul 5, sul 4, sul 5. Capale se dove siamo? Sul 5? No, siamo sul canale 4, vai al canale 10, va.